Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Ringraziandovi tutti per la cortese attenzione, ringraziando anche Cristiano Valli per la accorta regia, vi salutiamo e vi confermiamo l'appuntamento per domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata. Sì, grazie anche alla gentile e anonima ascoltatrice che ha telefonato poco fa con preziosi suggerimenti di cui terremo il debito conto. Ci sentiamo.